Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione del pensiero, la cultura, tenendo in considerazione tutti gli abitanti della Terra, umani e no. È la puntata numero 581 del nostro decimo anno di attività e parleremo di pantere pugliesi, di pitoni toscani, di sentenze europee, di ospedali vegani e di virus che continuano a viaggiare. Ci sarà anche la seconda voce della nostra nuova rubrica, Lessico dell'Antropocene, curata da Francesco Panier. Cominciamo parlando di caccia con una notizia che arriva dalla Corte di Giustizia Europea, che nella causa contro lo Stato francese ha dichiarato illegittima la cattura degli uccelli con il vischio, un sistema di cattura che era in regime di deroga. Secondo i giudici, le tradizioni non possono costituire un motivo di deroga rispetto alle norme di protezione delle specie. Secondo la LIPU, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, le conseguenze di questa decisione europea sono potenti e riguardano anche l'Italia, visto che la sentenza crea un precedente rispetto ad altre deroghe concesse dagli Stati per conservare pratiche di caccia definite tradizionali e perciò meritevoli di protezione normativa. Per molti anni, dice il presidente della LIPU Aldo Werner, la direttiva uccelli è stata forzata da vari paesi, Italia inclusa, attraverso la concessione di catture o abbattimenti di uccelli non cacciabili con la motivazione del richiamo a forme venatorie tradizionali. La LIPU, continua Werner, con tutta BirdLife International, si è storicamente battuta contro questa interpretazione errata della direttiva. E grazie anche alla grande campagna del 2008 e alle 200.000 firme raccolte, nonché alle denunce alla Commissione europea, ha contribuito a fermare tutte le deroghe, specie quelle concesse da Lombardia e Veneto. Ora, dice ancora Werner, arriva la sentenza della Corte di Giustizia a chiarire gli ultimi dubbi e a scrivere la parola fine alla pratica ormai fuori dalla storia di abbattere piccoli uccelli non cacciabili o catturarli a fine di richiamo. Quella di oggi, conclude il presidente della LIPU, è una pagina fondamentale per la protezione degli uccelli. Unruly boys, you will not grow up, must be Ogni volta che avviene un avvistamento di un animale esotico nelle nostre campagne o addirittura in città, è inevitabile sospettare fake news o esagerazioni. Stavolta sembra però che una pantera nera stia girando davvero per le campagne pugliesi. Anzi, forse erano due, una nel Foggiano, l'altra nel Barese. La prima, secondo gli esperti, sarebbe morta, l'altra ancora in libertà. Ma da dove vengono questi animali? Com'è possibile che vivano in ambienti così distanti e così diversi dal loro habitat? Da dove sono fuggiti? Un'ipotesi, quella più accreditata, conduce verso gli ambienti della criminalità, per l'antica passione di boss e malavitosi di possedere grandi felini, da sfoggiare come simbolo di potere. Già l'edizione del 2001 del rapporto Zoomafia della LAV riportava la moda diffusa fra i componenti della Sacra Corona Unita in Puglia di possedere felini come leoni e pantere, quindi si tratta di un'ipotesi che ha dei fondamenti. Ma come si acquista un grande carnivoro o un animale esotico? Secondo Ciro Troiano, il criminologo responsabile appunto dell'osservatorio Zoomafe della Lega Antivivisezione, e Andrea Casini, responsabile per la LAV dell'area animali esotici, i canali sono diversi e le rotte seguono quelle dei grandi traffici criminali e anche internet svolge un suo ruolo. In rete, appunto, il mercato di fauna selvatica è piuttosto fiorente. Ci vogliono pochi minuti, dicono Troiano e Casini, per trovare annunci di vendita online di animali in via di estinzione, cuccioli di tigre compresi, oppure oggetti in avorio. E poi va aggiunto che oltre al traffico illegale, in Italia sono allevate e commerciate legalmente molte specie esotiche, un elenco lunghissimo e preoccupante. La LAV ha lanciato una campagna di raccolta firme in calce a un appello per l'interruzione del commercio di animali esotici. Chi vuole firmare può trovare il format di sottoscrizione sul sito della LAV. Intanto, la cronaca rimanda a un'altra notizia affine a quella della pantera. A Fiesole, vicino a Firenze, è stato rinvenuto un esemplare di pitone abbandonato, quasi paralizzato dal freddo. È stato preso dai vigili del fuoco e portato per le cure in una clinica veterinaria specializzata. L'ipotesi è che sia stato abbandonato da un sadico collezionista che ha voluto disfarsene. Un motivo in più per partecipare alla campagna della LAV. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. For a heart of gold. I've been in my mind. It's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Una notizia curiosa e anche promettente arriva dal Libano, dove l'AIEC Hospital di Beirut, una struttura privata, ha deciso di convertirsi alla dieta vegana. È probabilmente il primo ospedale a compiere al mondo una scelta del genere. La ragione del passo compiuto, a detta dell'amministrazione, è la più ovvia per un ospedale: la tutela della salute. I cibi di origine animale, specie per pazienti debilitati, danno meno garanzie di quelli di origine vegetale. I nostri pazienti, ha spiegato la direzione dell'ospedale, non si sveglieranno più da un intervento chirurgico per trovarsi nel piatto prosciutto, formaggio, latte, uova, proprio quel cibo che ha avuto un ruolo nel determinare i loro problemi di salute. E ancora, sempre in una dichiarazione ufficiale, c'è un elefante nella stanza e nessuno lo vede. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice l'ospedale Hayek, classifica alcuni tipi di carne nel gruppo cancerogeno 1A, lo stesso del tabacco. La carne rossa è nel gruppo 2A. Di conseguenza, servire carne in ospedale è come offrire sigarette in ospedale. Gli studi condotti negli Stati Uniti spiegano che 3 nuove infezioni su 4 provengono da animali. Quindi, dice ancora l'ospedale libanese, abbiamo la responsabilità morale di allineare le nostre conoscenze al nostro comportamento e prendere il coraggio di guardare quell'elefante negli occhi. La decisione naturalmente ha suscitato reazioni di ogni tipo e qualche intenzione polemica, ma fra i cittadini sembra esserci consenso. Secondo una ricerca del Physicians Committee for Responsible Medicine, l'83% dei pazienti ricoverati è pronto a rinunciare alla carne per ridurre il rischio di cancro. Il 69% è d'accordo sulla necessità che gli ospedali servano solo cibo salutare. Vedremo se l'ospedale libanese farà scuola. Well, I was sitting waiting wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel and I ain't the Lord, no I'm just a fool and I love somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building. I'd put down all my ammunition, I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I Nei giorni scorsi è stato ricordato il primo anniversario del lockdown deciso dal governo italiano per fronteggiare la pandemia di Covid-19. A Restiamo Animali ci siamo occupati più volte delle origini di questo flagello, dovuto a una zoonosi, un salto di specie del coronavirus da un animale selvatico, un pipistrello con ogni probabilità, alla specie umana. Una zoonosi simile a quelle avvenute negli anni passati. Ebbene, un recente rapporto del WWF ci ricorda che le società umane sono pesantemente esposte anche a future zoonosi, a causa di un modello di sviluppo che produce la distruzione degli ecosistemi e contatti troppo ravvicinati fra le comunità umane e la vita selvatica, dove i virus si sono adattati nel corso dei millenni. Dice il WWF che le zoonosi rappresentano attualmente il 60% delle malattie infettive conosciute e il 75% delle malattie infettive emergenti. Il numero complessivo di zoonosi trasmesse da animali a persone umane è quasi triplicato negli ultimi 40 anni, complice l'azione, dice il WWF, dell'essere umano sull'ambiente. E questo, insomma, è il mondo in cui viviamo e in cui vivremo, con la minaccia di nuove pandemie sempre incombente. E perciò sarà importante battersi per un nuovo, diverso modello di sviluppo che preservi gli ecosistemi e limiti i rischi di zoonosi. Sono tutti temi questi che hanno a che fare con l'era terribile e distruttiva che stiamo vivendo, il cosiddetto antropocene. E proprio di antropocene ci parla Francesco Panier nella seconda puntata della sua rubrica intitolata, non a caso, Lessico dell'antropocene. È il 29 agosto del 2016 quando 35 scienziati riuniti in un gruppo di lavoro apposito presentano al Congresso internazionale di geologia di Cape Town una proposta. Sulla base dei dati raccolti, dicono, è opportuno dichiarare finita l'era dell'Olocene e sancire ufficialmente l'ingresso nell'Antropocene, l'epoca umana. L'impatto antropico sul pianeta, sostengono, è talmente profondo da essere stato registrato nella sua geologia. Altri lungo il Novecento hanno affrontato la questione, ma chi viene ricordato come padre dell'Antropocene è il naturalista Eugene Sturmer, che coniò il termine negli anni Ottanta. Nei primi anni 2000, il Nobel per la chimica Paul Crutzen lo rese mainstream nel mondo scientifico con il suo libro Benvenuti nell'Antropocene. Oggi il termine forse non è ancora di uso comune, ma si sta facendo strada molto rapidamente nei media e nella letteratura che fa tendenza. Fortunatamente non sono solo le cosiddette scienze dure a prendere in esame la teoria dell'Antropocene, ma anche la sociologia si sta dando un grande affare. Il filone dell'ecologia politica, in particolare, ha cominciato a porre domande non banali. Davvero è l'umanità intera ad avere sfigurato il pianeta su cui vive? Davvero abbiamo tutte e tutti la stessa colpa per la crisi ecologica, l'estinzione di milioni di specie animali e vegetali, la detonazione di ordigni nucleari e l'incredibile diffusione della plastica? Se la risposta è no, è bene chiederci se la parola antropocene sia quella giusta, perché è una parola che rischia di spalmare indistintamente sull'intero genere umano la responsabilità di aver lasciato un'impronta indelebile sulla Terra. Una controteoria interessante l'ha formulata il sociologo Jason Moore. Il titolo del suo libro del 2017 è una domanda: antropocene o capitalocene? La risposta che avanza Moore, infatti, è che negli ultimi 6 secoli si siano affermate forze di pensiero che hanno dato forma a un mondo governato dal principio di accumulazione tipico del capitalismo. Questo sistema, voluto e perpetuato da una minoranza ben precisa del genere umano, avrebbe plasmato il mondo così come oggi, non solo a livello sociale, ma anche sul piano ambientale. Non è colpa nostra, ci dice Moore, se abbiamo un posto di lavoro precario che raggiungiamo ogni giorno con un'auto a benzina. Certo, contribuiamo al riscaldamento globale, ma l'alternativa sarebbe la disoccupazione. Ecco perché la causa della crisi, sostiene il sociologo, va cercata non tanto in chi subisce questo sistema dominato da diseguaglianze e devastazione ambientale, ma in chi lo ha costruito per trarne beneficio e ricchezza, scaricandone gli effetti sulla maggioranza delle persone e sulle altre forme viventi. Partendo da queste premesse, c'è solo un modo per far rientrare la crisi ecologica: superare il principio dell'accumulazione e affermare nuove relazioni collaborative in quella che Moore chiama, con una bellissima espressione, la rete della vita. Underground. yourself, what is that beautiful house? You may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right, am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing under the, into the blue again, into the silent water, under the rocks and stones. There is water under the, letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing under the, into the blue again, after the money's gone, once in a lifetime. Water flowing under the, same as it ever was. Chiudiamo con il sorriso sulle labbra e un senso di piacere, grazie alla ricetta della settimana del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore, vi ricordiamo, del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo che cosa si è inventato Gabriele questa settimana. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Restando in tema Pantera, in questa puntata non vi darò una ricetta di cucina, ma quella di un famoso cocktail spagnolo in auge negli anni 70, ma da poco riscoperto e tornato di moda, il Leche de Pantera. Per la sua preparazione vi racconterò come realizzare un latte condensato a base vegetale. Per il latte condensato, 250 ml di latte vegetale, di riso, di soia o di avena, 150 g di zucchero di canna, 5 g di amido di mais e della vaniglia. Per realizzare il cocktail, del gin, latte condensato vegetale, cannella in polvere e ghiaccio tritato. Iniziate preparando il latte condensato. Stemperate l'amido di mais con il latte vegetale, unite lo zucchero e la vaniglia e mettete il tutto sul fuoco in una casseruola dal fondo spesso. Portate ad ebollizione e abbassate il fuoco, quindi lasciate sobbollire a fuoco lento per 15-20 minuti. A questo punto togliete dal fuoco e lasciate raffreddare completamente. Versate il latte condensato in un vasetto di vetro e conservatelo fino al momento di utilizzarlo. Adesso possiamo preparare il cocktail. In uno shaker versate una parte di gin e due di latte condensato vegan. Shakerate con energia per qualche minuto fino a quando saranno ben miscelati. Mettete del ghiaccio tritato in un bicchiere e versate sopra il cocktail. Aggiungete una spolverata di cannella e servite. A piacere potete realizzare anche una versione in rosa, aggiungendo al cocktail un goccio di sciroppo di granatina. It feels so good, swimming in your stomach.